credo con il cuore senza il fede. Quando si lascia così. Bello casino. Vabbè, fa, che si c'ha, Quello senza ombra di dubbio, ma nel caso di Antonio, diciamo che ne sono uno su 500.000. Aiuto, facciamo entrare gli altri, Mario. Grazie. dispiace perché era un ragazzo anche in gamba. No, io ci sono uscito un paio di volte, io, lui, Lando, Natalino, niente, era un ragazzo ben in gamba che andava a finire così, non me lo sarei mai aspettato, non lo credevo mai, anche perché lui era un bel attaccato alla sorellina, tante cose, non ci credevo mai che andasse così. Va bene, dai. intanto mettiamo l'accordo, non c'è problema. Sbrigati però a me, perché io se no lo metto sui video. Cappa, ecco, parlerà, ripeti Mario. Cappa, cappa. E cosa ci sta venendo, ma cari? Il presidente Jackson. Cappa, cappa. Cappa, cappa, va bene. Meglio così, meglio così. Vuol dire che devi comprare il più grande. Sì, devo comprare una cosa che mi serve. Yeah. quello lì lo hai fatto fuori perché sono anche nel razzo. Ma cosa? Quello che ti aveva dato la buon'anima di Cinemella, quello piccolino. Non lo ricordo. Ma lo ricordo io. Vabbè, l'avevi dato all'amico nostro. Ma vabbè, cosa vuoi che dica? Adesso mi devo mettere in carreggiata, se no la macello. Vabbè, piano piano si migliora. Allora, piano piano si migliora Natalizio. E poi se mi arriva quella storia là, bisogna che ci abbia un po' di roba, almeno il minimo per poter iniziare. Cappa. Sono un po' stanco. Sì, anch'io sono stanco. Infatti, oggi il baracchino non l'ho acceso per nulla. Non l'ho acceso. Adesso l'ho acceso. Sono andato a vedere chi c'era per salutare. Ecco, poi anche io l'ho acceso quando sono arrivato verso le 7:15, così. Vabbè, sono arrivato, l'ho acceso, ci ho trovato a Claudio. E niente. Adesso aspettiamo un poco, carichiamo e secondo come va bene mi ci curico. Sto cercando anche di vendere un GPS, che non me ne faccio nulla. GPS sarebbe? Il GPS è quello che funziona con i satelliti per trovare la posizione, si usa in barca, in aereo. Ah, cappa, ho capito. Oggi l'ho detto. Sto facendo, l'hai sentito, Natalino? No, negativo. Adesso vediamo quando sale. Chiede se mi busca un'antenna per il marino. Sì, scappa. È la 27, già glielo dico a vedere se la busca qualcuno. Cappa. Perché non lo so se... Adesso, vabbè, sono un po' di tempo senza scendere giù a Porto Torre. Ma appena che scendo devo chiedere capitaneria se io nella mia barca lo posso mettere quell'altro. Non è obbligatorio quello, solo le barche grandi. E poi ci vuole il patentino per quello e un sacco di mare risulti. E ci manca un bel di là. Perché c'è un mio fratello nel suo. Quello lì che sta dicendo tu e si paga un bel di soldi all'anno. Ah, pure. Non lo sapevo, io siccome c'è di uno che ne ha due e uno lo voleva fare fuori e io gli ho detto di non avere fretta, comunque che mi informo e poi vedremo. Ma si pagano 1 milione all'anno per Bari per averlo in barca. E allora non ti chiedi che si può mettere così, lo devono, vengono quelli delle scomposte a controllare tutto, io macello. Ci vuole la licenza per quello. Quindi ci vuole solamente l'autorizzazione da Cagliari, sempre dal Ministero, giustamente. Però dice che non ci vuole il patentino. Alcuni mi hanno detto che non ci vuole il patentino. Alcuni hanno detto che ci vuole il patentino. È sempre un HF marino, però c'è chi dice che siccome c'è solamente quei 4-5 canali, mi sembra, che uno è di essere informati con le previsioni del coso marino, là, e niente, poi c'è l'emergenza e un altro canale, mi sembra che sono 4-5 canali che ci sono. Sì, e via dicendo. Però 38 sono i canali, ci vuole il patentino perché ce l'ho anch'io il patentino per quello lì. Solo per tenerlo ci vuole il patentino, figurati. Cappa. Ma non lo sapevo. Il nominativo te lo danno alla Cagliari, capito? Ci vuole la licenza. Quando c'è il patentino devi fare richiesta di nominativo. 7 in barca. Piano. pezzo alla roccia e si va di brutto. Se ti piace la barca sono quelli gli strumenti che devi avere e basta. Quei due strumenti basta e avanza. Capito? Caffè di positivo. Luca sta cucinando. Claudio ha detto che lo stava chiamando la moglie. E deve essere uscito con la moglie perché non si è più sentito. Sì, molto probabilmente sì. Magari sono dovuti andare a fare qualche commissione, capito? La cappa. Gianni ha detto che saliva a casa e lo prendeva da casa, non si è fatto più sentire. Sicuramente sarà preparando la cena per i ringhiellini. Poche lasci, e quindi giustamente. Piano piano vedrai che tutto è entrarci, poi lavorare. conosco io, fa 4 mesi lì e 4 mesi con i tram. Qualcuno si rifiuta, non ci vanno, la chiamano a me. In capo, allora. esempio, ho fatto la domanda per il coso, per l'autoparco là, invece non mi hanno chiamato. Adesso uno di questi giorni devo tornare ad andarci per vedere come finiamo questi lavoretti che ha preso mio compare, anche se compare ma non compare Gianluca, che agli Nebrisi, e ci devo andare a fare un salto per vedere come è messa la storia. Ma perché io ho fatto la domanda e ancora non mi hanno chiamato. Qualcuno mi ha detto che l'hanno bloccata perché dovevano assumere gli ex incarcerati oppure i giustici. Thank you.